24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Un saluto da Sergio Nava, bentrovati a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. In primo piano l'ennesimo lunedì nero delle borse europee, con Milano piazza peggiore nel vecchio continente. Bruxelles fa la voce grossa con la Siria, imponendo ulteriori sanzioni contro Damasco e chiedendo l'intervento dell'ONU. Vi aggiorneremo sugli ultimi dati relativi alla disoccupazione in Europa e vi daremo le ultime novità sull'ennesima tragedia legata all'immigrazione a Lampedusa. Per chiudere vi racconteremo come crisi economica e sport si stiano intrecciando in Spagna. Come dicevamo nel sommario, un'altra giornata di passione sulle piazze finanziarie europee, che hanno brindato solo per poche ore all'accordo sull'innalzamento del tetto del debito americano annunciato nella notte tra domenica e lunedì. A Milano il FTSE Euroshare ha perso il 3,63%, il FTSE MIB il 3,87%. Piazza Affari si è rivelata la borsa peggiore nel vecchio continente, dove ha retto contenendo le perdite solo Londra meno 0,70%. Molto male Parigi meno 2,27% e Francoforte meno 2,86%. Perché quest'altro lunedì nero? Sentiamo l'analisi di Moria Longo, giornalista del Sole 24 Ore. I mercati oggi cosa hanno fatto? Hanno visto una zattera americana che ha sì raggiunto, i repubblicani e democratici hanno raggiunto l'accordo sul debito, ma è ancora oberata da tantissimo debito, con una crescita economica che non c'è. La zattera europea, idem, ha alto debito e crescita economica che non c'è. Quindi, non sapendo in quale zattera saltare, da quale zattera saltare, gli investitori hanno iniziato a vendere i titoli più deboli, dei paesi più deboli, quindi l'Italia, quindi i soliti paesi periferici europei, quindi hanno iniziato a vendere le banche, poi è salito lo spread tra BTP e Bund, quindi hanno venduto titoli di Stato italiani, perché il problema è questo, che se ci fosse l'Europa solida e l'America in crisi, tutti gli investitori andrebbero in Europa e lascerebbero l'America, ma dato che la crisi è da una parte e dall'altra parte dell'oceano ed è abbastanza simile, grosso debito e bassa crescita economica, non sapendo da quale parte in quale zattera salvarsi, è ovvio che i mercati vendono, poi chiamiamola speculazione, chiamiamola panico, entrambe le cose sicuramente, vendono i più deboli, i titoli più deboli, quindi principalmente l'Italia. Non è un caso che Piazza Affari sia la peggiore oggi. E ascoltiamo ora com'è andata in particolare la giornata di ieri a Milano. Ancora una seduta di passione per le borse europee, che non hanno trovato conforto nell'accordo raggiunto in America per innalzare il tetto legale sul debito. Milano ha registrato la performance peggiore, penalizzata anche dall'andamento dei titoli di Stato, dove lo spread tra Bund e BTP ha toccato nuovi record al di sopra dei 350 punti base. Il FTSE MIB ha ceduto il 3,87%. Sono crollate le azioni delle banche, con Banco Popolare, Intesa San Paolo, MPS e UBI tutte scivolate di oltre il 7%. Fonzai ha accusato la performance peggiore del listino, perdendo oltre il 9%. Nel paniere principale sono salite solamente le Campari dello 0,6%. Le autogrill inoltre hanno chiuso invariate, beneficiando ancora dei conti semestrali pubblicati venerdì scorso, risultati al di sopra delle attese. L'azienda ha archiviato il primo semestre con profitti netti per 39 milioni, in progresso del 66%. Fiat S.p.A. infine ha accusato una flessione del 3,77% nell'attesa dei dati sulle immatricolazioni resi noti a borsa chiusa. Eleonora Micheli da Radio Cor per Radio 24 e Il Sole 24 Ore. L'Europa scende in campo a sostegno della Grecia anche sul fronte della crescita, agevolando l'impiego di 900 milioni di euro di fondi comunitari già destinati ad Atene, che potranno ora essere spesi superando i vincoli del cofinanziamento. Bruxelles ha infatti deciso di portare dal 50 al 95% la copertura dei costi delle opere che potrà essere realizzata grazie ai fondi comunitari. L'Unione Europea ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'ONU di intervenire per mettere fine alle violenze in Siria. Bruxelles ha deciso di imporre ulteriori sanzioni contro Damasco sotto forma di un congelamento dei beni e dei visti per 5 persone coinvolte in Siria nelle violente repressioni. Torniamo ora a parlare di crisi con la disoccupazione nel vecchio continente. A giugno l'Italia è risultata terza per numero di giovani sotto i 25 anni non occupati, lo ha comunicato Eurostat. Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia a giugno era del 27,8%. Peggio di noi solo la Spagna, 45,7%, e Slovacchia, 33,3%. La media di Eurolandia è al 23%. Dati confermati drammaticamente anche dall'Istat. È un paese statico, senza guizzi, nel bene ma soprattutto nel male. Lo conferma l'Istat a proposito del tasso di disoccupazione, che a giugno si attesta sulla fatidica soglia dell'8%, soglia dalla quale da mesi non riusciamo a schiodarci. Su base annua c'è un lieve calo dello 0,3%, ma è una goccia nel mare. E aumentano i cosiddetti inattivi, quelli che cioè hanno perso ogni speranza di trovare lavoro e neanche lo cercano, e che ormai non fanno più statistica. Ma sui giovani tra i 15 e i 24 anni è ancora peggio, e anche se il tasso di disoccupazione scende al 27,8%, facendo registrare una diminuzione congiunturale di 0,4 punti, il dato complessivo, quello di quasi il 28%, rimane comunque altissimo e superiore ai livelli di un anno fa. Uscire da questa impasse è una delle grandi sfide che ha di fronte l'Italia. Dario Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo la crisi immigrazione dei primi mesi dell'anno, che ha allarmato l'Europa, è ripresa l'ondata migratoria verso l'isola italiana di Lampedusa. Sono state destinate ai centri di accoglienza anche le 271 persone arrivate ieri all'alba sull'isola e partiti dalla Libia. Sul barcone all'interno del quale viaggiavano sono stati trovati 25 cadaveri. Si trattava di persone morte per asfissia. Erano stipati in un barcone troppo piccolo, quasi 300 persone su 15 metri instabili. 25 di loro, forse i primi saliti a bordo diretti a Lampedusa, sono finiti nella stiva dove si trova la sala macchine. L'aria è diventata irrespirabile. Il sindaco di Lampedusa, Bernardino De Rubeis. A quanto pare, quello che mi dicono, stavano tentando per uscire dalla stiva, però per evitare movimenti e la barca il rischio di affondare e mettere il rischio alla vita degli altri, non hanno consentito la possibilità a questi altri immigrati, che erano 25 estiva, di uscire fuori, diciamo, e potersi salvare. Sono morti tutti e 25 soffocati. I cadaveri sono rimasti nella stiva per qualche giorno, fin quando la guardia costiera ha intercettato il barcone a largo di Lampedusa. I 271 sopravvissuti, tra loro anche donne e bambini, partiti dal Corno d'Africa e imbarcatisi in Libia, saranno trasferiti nei centri CARA per richiedenti asilo. Paola Nania, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Camera e Senato italiani lavorano ai tagli dei costi della politica con una sorpresa. Da uno studio presentato a Montecitorio, i deputati italiani costano meno dei loro omologhi europei, 20.486 euro contro i 23.066 euro dei francesi, i 27.364 dei tedeschi e i 21.089 degli inglesi. Lo ha comunicato il questore Francesco Colucci. Sentiamo un passaggio del suo intervento in aula. La Camera ha dato il proprio contributo al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposte dall'attuale congiuntura economica e continuerà a farlo se necessario, ma senza dar credito a chi finge di ignorare che la democrazia ha un costo e parla a sproposito di privilegi e di sprechi. Mantenere una politica di bilancio rigorosa è doveroso, ma altrettanto doverosa per noi è la garanzia della funzionalità del Parlamento e la salvaguardia del pieno esercizio del mandato parlamentare. Continueremo pertanto a fare economie, ma valuteremo anche progetti di sviluppo essenziali per conservare a questa istituzione la capacità di rappresentare, indirizzare e decidere. Per chiudere andiamo in Spagna, dove gli sviluppi della crisi economica si intrecciano ai destini dei campioni di calcio. Sentite un po'. Non si vede cacà, non si vede cacà, non si vede cacà. Non si vende Kakà, cantavano due anni fa i tifosi milanisti per opporsi alla cessione dell'asso brasiliano al Real Madrid. Quella cessione poi alla fine si è fatta, ma se Kakà quindi vendere si può, la scoperta di questi giorni è che, nel caso, lo si può anche pignorare. Lui e il suo compagno di squadra, Cristiano Ronaldo. Spieghiamo il perché. Per acquistare i due fenomeni, il presidente del Real, Florentino Perez, sborsò la bellezza di 160 milioni di euro, la metà dei quali ottenuti in prestito da 7 istituti bancari confluiti poi nel più importante gruppo del credito spagnolo, Bankia. Ora Bankia sta trattando un cospicuo prestito dalla Banca Centrale Europea e, tra le garanzie presentate, vi è anche un titolo finanziario collaterale che certifica il debito del Real Madrid nei confronti del gruppo bancario iberico. Insomma, in caso di crollo di Bankia, la BCE potrebbe pignorare i due giocatori e rivenderli a chi vuole. Ipotesi certo non auspicabile, non tanto per Kakà e Ronaldo, ma soprattutto per i piccoli correntisti di Bankia.